se ora non ci diciamo niente avremo mille motivi per separarci. Anche se ora non ci diciamo niente avremo un sol motivo per incontrarci. Con sguardo felpato riprendo la strada e scopro di nuovo una lunga giornata e sento sul cuore una giovane vena che fluttua il piacere di ogni semplice scena. Degli ultimi anelli di questa collana non farne di nuovo una vecchia catena. Con le splendide acque dell'antica fontana rinfresca, oh Signore, la mia anima umana. Con le splendide acque dell'antica fontana rinfresca, oh Signore, la mia anima umana. Anche se ora non ci diciamo niente avremo mille motivi per separarci. Anche se ora non ci diciamo niente avremo un sol motivo per incontrarci. Mai più la mia bocca aprirà il cibo guasto, le caverne indecise che aspettano un pasto e quel pallido mostro che di oggi mi resta. Tornerà son sicuro nella sua grigia foresta. Degli ultimi anelli di questa collana non farne di nuovo una vecchia catena. Con le splendide acque dell'antica fontana rinfresca, Signore, la mia anima umana. Con le splendide acque dell'antica fontana rinfresca, oh Signore, la mia anima umana. Con sguardo felpato riprendo la strada e scopro di nuovo una lunga giornata e sento sul cuore una giovane vena che fluttua il piacere di ogni semplice scena. Degli ultimi anelli di questa collana, no, non farne di nuovo una vecchia catena. Con le splendide acque dell'antica fontana rinfresca, oh Signore, la mia anima umana. Con le splendide acque dell'antica fontana rinfresca, oh Signore, la mia anima umana.